Letture di Radio 24. A Detroit non ci sono soltanto le rovine di vecchie fabbriche di automobili in disuso, ma anche le nuove realtà produttive, testimonianza di come nella capitale dei motori sia stato rinnovato il concetto di fabbrica. Noi celebriamo i fratelli Dodge con grande affetto, dice una fragile anziana signora, guida turistica del primo stabilimento della Ford, un edificio in mattoni rossi di tre piani, da cui vennero sfornati tra il 1908 e il 1910 i primi esemplari della mitica Ford T, l'auto per le masse, quella che anche gli operai potevano permettersi. A Pickett Avenue, nel centro di Detroit, del rombo manifatturiero rimangono solamente muri e spazi silenziosi e qualche vecchio modello dato in prestito da generosi collezionisti. Per il resto è uno stabile strappato all'oblio da un gruppo di volenterosi pensionati, abbandonato dalla Ford nel 1910, troppo piccolo e lento per le immense e veloci catene di montaggio, sopravvissuto a stento fino ad oggi. Pickett assemblò 12.000 modelli T. Nel nuovo impianto di Highland Park ne vennero costruite 15 milioni, fino al 1927. Forse proprio perché si tratta di una briciola nella storia della mobilità di massa, o forse perché i nostri pensionati sono genuinamente super partes, Pickett può celebrare la fusione di talenti che forgiarono l'industria dell'auto americana in incroci inattesi e piuttosto adulteri. I fratelli Dodge, prima di diventare produttori in proprio, progettarono le prime Oldsmobile e furono soci di Henry Ford, contribuendo a molte delle soluzioni ingegneristiche e fornendo i componenti del modello T. Morirono entrambi nel 1920. La Dodge Brothers Motor Vehicle Company fu venduta alla Chrysler nel 1928. Insomma, con Pickett e il talento dei Dodge, si incrocia la storia delle tre major dell'auto americana. Ma la contemporaneità di Pickett non sta solo nell'essere la radice motoveicolare più remota che si possa trovare a Motown. Sta in un'idea di fabbrica dove ciascuno, dal capo al più umile degli addetti, vive in una comunità e contribuisce con il proprio ingegno, non solo con la forza delle braccia, a mettere insieme una meraviglia della meccanica. L'orgoglio dell'anziana guida assomiglia molto a quello del direttore dello stabilimento della Chrysler di Toledo Nord nell'Ohio, mandato due anni fa a rinnovare la produzione di un altro mito americano, la Jeep Wrangler, prodotta qui da 70 anni. Toledo sembra un'infermeria tirata a lucido più che una fabbrica, piena di macchine e persone che lavorano senza rumore, senza fumo, senza olio, senza scarti. È silenziosa come Pickett, ma piena di vita. Il principio del direttore dello stabilimento è che la vita bisogna conquistarsela. Dobbiamo essere abbastanza efficaci perché all'azienda convenga produrre e investire qui. Il concetto che siano gli impianti a doversi meritare gli investimenti rovescia completamente la logica di un processo decisionale che parte dall'alto, fondato su numeri e calcoli finanziari e ingegneristici. Il punto a favore del direttore di stabilimento rispetto ad ingegneri e finanzieri è che la dimensione dei numeri dipende da lui e da tutti i suoi operai, e allo stesso modo la pensa il presidente del sindacato di stabilimento. L'obiettivo di ridurre i numeri è così condiviso da tutti, e tutti contribuiscono. La linea di montaggio è organizzata in squadre di 7-8 persone ciascuna. Ogni squadra svolge diverse funzioni a rotazione tra i suoi membri. L'operaio di linea ha compiti estremamente standardizzati, studiati in modo da minimizzare i tempi di esecuzione e migliorare l'ergonomia, ma allo stesso tempo fa proposte concrete su come ridisegnare linee e funzioni. Mostra orgoglioso, accanto alla sua postazione, statistiche con media e deviazione standard della performance del suo team. Insomma, ha un senso di possesso delle sue funzioni e dell'impianto e così contribuisce ad attrarre gli investimenti. Questo concetto di fabbrica, il World Class Manufacturing, introdotto a Chrysler dal gruppo Fiat, non so quanto sia comune anche ad altri impianti a Detroit. Certamente tutte le fabbriche di auto a Motown stanno risorgendo, sfornando di nuovo numeri crescenti di veicoli. In parte è congiuntura, ma molto dipende dal modo in cui è stata reinventata la fabbrica. Tra Pickett e Toledo ci sono le rovine industriali di impianti come River Rouge, la città fabbrica della Ford, costruita dopo Highland Park, dove lavoravano 120.000 persone, troppe per poter pensare di essere in competizione per attrarre nuovi investimenti o per arrivare a concepire che ogni singolo operaio sulla linea possa avere abbastanza individualità per migliorare il processo. Le auto si facevano lì e basta. Ora River Rouge è un ammasso di rovine. C'è un meraviglioso libro di fotografie di Andrew Moore, Detroit Disassembled, che illustra lo sfacelo del modo di produrre impersonale e infinito delle linee di montaggio tradizionali. La cosa straordinaria di Detroit è proprio l'accostamento tra le rovine a cielo aperto di quel che non funziona più e la realtà delle fabbriche rinate, grandi ma non immense, sparse nei sobborghi intorno alla città. L'accostamento ricorda che nulla è permanente in economia, per quanto immenso e possente, e soprattutto che non c'è rovina da cui non si possa rinascere. Le automobili di Detroit stanno rinascendo grazie a un'alleanza tra Stato federale, nuovi manager, azionisti e lavoratori che ha nell'attività tecnica e industriale il suo perno. Questo risultato è stato in parte reso possibile da una forza lavoro che ha accettato di rinunciare a privilegi conquistati con durissime lotte e da un sindacato forte, di fatto unico, ma responsabile. Le rinunce salariali, l'introduzione di un sistema duale che prevede paghe inferiori per i nuovi entrati, comunque a condizioni equivalenti se non migliori a quelle europee, sono compensati da una prospettiva di futuro a cui tutti partecipano e che tutti possono misurare. Avete ascoltato la lettura della recensione di Giorgio Barba Navaretti al libro di Andrew Moore, Detroit Disassembled, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. La felicità arriva dopo i 40 anni? È la tesi sostenuta da un ricercatore inglese che individua nella fascia di età tra i 40 e i 60 il picco di soddisfazione e di capacità di analisi. Un po' più grigi, un po' più lenti e più rugosi, ma anche più stabili emotivamente, più felici e più intelligenti che in ogni altro periodo della nostra vita. Questo nuovo glorioso inno alla mezza età viene innalzato da David Bainbridge, 42 anni, studioso di veterinaria all'Università di Cambridge, che con un ardito salto di campo si è ora interessato agli umani e, procedendo con tecnica evolutiva, ha concluso che il picco di soddisfazione e di capacità di analisi si trova proprio tra i 40 e i 60 anni, lontano dagli alti e bassi della gioventù e dai declini della vecchiaia. Bainbridge, nel suo libro Middle Age, definisce i protagonisti della mezza età naturalmente resistenti, presi come sono fra figli teenager, i genitori che invecchiano e il lavoro, capaci nonostante tutto di rimanere efficienti e pieni di energia, modello le protagoniste di Sex and the City. È nuova musica per le orecchie di quella generazione di baby boomers che non vuole invecchiare e che ora si trova proprio in quel passaggio della vita. Punto di riferimento per loro potrebbe diventare proprio questo libro, dove Bainbridge prende di petto, rincuorando continuamente, la grande questione dell'età, sesso, menopausa, andropausa, ma soprattutto è di conforto quando affronta le nuove scoperte sul cervello e conferma che invecchiando si acquista in visione d'insieme quello che si perde in sveltezza e si diventa abili a usare entrambi gli emisferi del cervello, destro e sinistro, operazione che ai giovani riesce meno bene. Non solo. Anche se le ricerche sono ancora in corso, Bainbridge si dice convinto che il cervello della mezza età stia diventando la macchina pensante più potente e flessibile dell'universo. Eventualità che aprirebbe grandi possibilità di affermazione in tempi imprevisti, se non tardivi, della vita. Potrebbero così diventare la norma quelli che finora erano stati considerati casi limite. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Luisa Agnese, Se la felicità arriva dopo i 40, dal Corriere della Sera del 19 marzo.